Hadith numero 36. Disse Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, è stato tramandato che il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: Allah allevia da una preoccupazione del giorno del giudizio colui che allevia un credente da una preoccupazione della vita terrena. Allah agevola nella vita terrena e in quella futura colui che agevola uno che si trova in difficoltà. A chi saprà tener nascosta la mancanza di un musulmano nella vita terrena, Allah terrà nascosta una sua mancanza sia nella vita terrena sia nella vita futura. Allah è in soccorso del servo nella misura in cui il servo è in soccorso di suo fratello. A chi si mette su una strada per ricercare scienza in essa, per mezzo di essa, la scienza acquisita, Allah gli renderà facile una strada verso il paradiso. Un gruppo di persone non si riunisce in una delle case di Allah per recitare il libro di Allah e per studiarlo insieme tra loro, senza che su loro scenda la sakina, la calma che viene da Allah. La misericordia li avvolga, gli angeli li circondino e Allah li annoveri tra coloro che sono presso di lui, e colui l'azione del quale l'avrà fatto ritardare non lo farà affrettare il suo lignaggio. L'ha riferito l'imam Muslim in questa forma.